se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. Dopo Renzo e Lucia, Carlo e Maria, Manzoni direbbe i promessi sponsor. Sì, perché grazie a voi due questa settimana la raccolta pubblicitaria della RAI equivale a una manovra finanziaria. Pare che il ministro Padoan, per tranquillizzare Bruxelles, stia valutando di fare un Sanremo al mese per risalare il bilancio dello Stato italiano. Scusa Carlo, ma tu non sei orgoglioso che quest'anno la prima polemica del festival è stata su di te? Perché Salvini ha detto che il tuo compenso è vergognoso e che la RAI dovrebbe darlo ai terremotati. Sai cosa ti dico, Carlo? Ha ragione. Ti dico di più. Io ai terremotati darei anche lo stipendio di Salvini. Con quello che ha guadagnato a Bruxelles in questi anni, cazzo, ci ricostruisci tutto l'Abruzzo in marmo di Carrara. Io sono di Genova. Col cazzo che lavoro gratis. No, ve lo dico. E adesso vi lascio al festival italiani, che vi ricordo sarà trasmesso in Eurovisione. Ah, certo. In Eurovisione proprio per vendicarci con l'Europa. Questa è la Crozza a Sanremo? Ah, insomma, ha fatto di meglio, ha fatto di meglio. Però siamo qui. Cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti, il mio Sanremo è stato questo. Siccome avendo la febbre mi sono messo lì, ho detto con mio figlio, dai, mettiamoci nel letto alle 20:38 a vedere Sanremo, non iniziava più. Vabbè, poi è iniziato Tiziano Ferro, un improbabile Giusy Ferreri, un altro Moro, pare si chiami. Poi è entrata una spatafiata di Guardia di Finanza, Croce Rossa, e lì basta, sono crollato. E ho dormito il sonno dei giusti. E va bene, perché Sanremo è Sanremo, alle 6:31 minuti. Allora, un ascoltatore ci scrive: saluti da Mosca, meno 20, ma niente Sanremo. Si sta da Dio, vabbè, adesso non so, oh mamma, quelli che odiano Sanremo. Io avevo la febbre, se no lo vedevo così. Se sei a casa, non hai niente da fare, riguardi Sanremo, spari due minchiate sui vestiti di qualcuno, giudichi due canzoni e dai, basta. Sto radical chicchismo. Mamma mia. Saluto Rosalba che ci chiama, ci scrive da Napoli al 349-238-6666. Saluto anche uno che se l'è visto tutto, lo so, giudicava, scriveva, twittava. Il nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno, buongiorno Luca. Buongiorno. Buongiorno. Tutto l'hai visto? Mi sono perso qualcosa di grave? No. Devo dire no, però sì, però l'ho visto tutto. Io lo vedo sempre tutto. Lo dici è con una religione. Lo dici con un tono, una religione. Per me sì. Una religione. E lì è twitta, commenta. Hai già detto chi ha vinto secondo te? Chi è che ha vinto un nome improbabile per me, secondo te? No, ieri sera sì, secondo me sì. Ermal Meta. Ermal Meta. Io il 70% di quelli che apparivano non sapevo neanche chi fossero. Anche loro. infatti, anche loro. Saluto anche Gianni da Amsterdam. Evviva! Saluto anche la nostra Angela dalla Svizzera, credo Basilea, ci dice che nevica. Oh, io ho la febbre. Paola Saluzzi ha la febbre, ma invece la nostra Veronica Gentili è qui, buongiorno Veronica. E forza. Sta una bomba. Vuoi cantare in nome di Sanremo? Ma cosa? Questa minaccia mi è stata già fatta ieri, perché no? Ercupolone. Ancora, poi il mio successo. Dai, puoi, Più vivo e so più buono. No, non te lascio mai, Roma Capoccia. Sì, ho anche cantato, basta. Oh, brava. Altro che Ermal Meta, come si chiama? Non hai steccato per niente. Che poi lascio, sì, alle 6.34. Aperti gli occhi da un minuto, quelli per andare a Sanremo hanno 12 ore per riprenderti, abbiate pazienza. Che poi non te lascio mai o non te lasso mai, non ho mai capito. Dipende, secondo me anche Venditti, a seconda di come gli gira, se sta in serata più romana, dipende, capito? Lasso mai. Non te lasso mai. Roma Capoccia. Bermo non fame. Va bene. Questa è la nostra Veronica. È single o no? Single o no? Lo so. È la quinta settimana decisiva. La mia indagine si è un po' fermata per la febbre. Caro Luca Dini, tu non ci puoi aiutare a capire questa cosa? È single oppure no, Veronica Gentili? Io uno scoop me lo tengo per le mie pagine. C'ha già le foto nei cassetti. Bravo direttore, così si fa. C'ha già le foto nei cassetti. Ma è ovvio che lui lo sa e le tirerà fuori al momento opportuno, no? Certo. Okay. È come quella di Trump. Adesso non vorrei fare un accostamento che ti farà felice, cara Veronica. Pare che Donald Trump giri in accappatoio alla Casa Bianca. Questa cosa è considerata... Che immagine. E poi c'è Melania Trump che invece la Casa Bianca che non ci mette piede manco sotto tortura. Beh, adesso si è anche spiegato il perché, però, visto che il marito ci gira in accappatoio. Ma guardate che è stupendo, ti immagini il capo della sicurezza nazionale che passa: "Oh, sir, Mr. President", e lui: "Yes", con l'accappatoio tutto bianco, con questa zazzera bionda tutta un po'... me lo vedo l'immagine è meravigliosa. Dai Veronica, adesso al di là di tutto è meravigliosa. Io capisco che tu ne soffra, sciocchina, perché la Casa Bianca non ci hanno messo te. E comunque nemmeno io ancora me ne capacito. Uno sciocchina. Quindi anche io ci penso spesso, e quando lo vedo come si comporta negli Stati Uniti, penso se avessero eletto te come sarebbe tutto diverso. Esatto. Io è stato uno sbaglio. Io andrei con neanche l'accappatoio, proprio l'asciugamano, quello in vita. L'asciugamano in vita a torso nudo. Va bene, dai. Il presidente con la febbre appena insediato, già saresti così, capito? Esatto. Dobbiamo aprire il Parlamento, insomma. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Forza, gente, a correre. Vabbè, Luca, dai, e Crozza è stato un po' sottotono. Dai, insomma, queste sono le migliori battute che ha fatto. Ma lui non funziona a Sanremo, onestamente. C'è già stato e non ha funzionato. Non so perché. L'anno scorso balbettava, mi ricordo. Sì, ma sì. Perché si snatura? Sì, non è il suo posto proprio. È costretto a cercare una cifra più pop, quindi che sia più funzioni più per tutti, che è meno vicino ai suoi temi classici. E poi, però, chiaramente il risultato di questo è che un pochino ha fatto Renzi. Io sono stata contenta perché comunque era divertente, però era basso profilo, sì. Va bene, stiamo discutendo della performance di Crozza a Sanremo alle 6.37 minuti, vi voglio ricordare questa cosa. Io ho un problema, che l'ho visto praticamente tutto anch'io e non so chi sono quelli di cui sta parlando Luca, quindi parliamole. Ma come mai ci sono tutti questi sconosciuti? Cioè, cosa è successo? Hanno detto tutti di no gli altri? Non lo so. Ma forse sì. No, diciamo che sai, bisogna presentare una canzone, poi la canzone deve essere decente. Poi sì, non c'è, c'è tanti non hanno più voglia di andarci, purtroppo. Ecco. Questo ragazzo è obiettivamente bravo, però sì, c'è, c'è quel fatto lì che tu... ce ne sono alcuni che dicono, ma questo perché, non, non dico qui, ma perché nei, nei big, certo. Cosa ha fatto? Sì, sì, infatti arrivavano anche i big e dicevano, ma chi sono questi? Questo me lo, me lo, guardavano tra di loro. Cioè, ma tu sei un cantante, sei uno del pubblico, sei, ma chi sei? E va bene, sì. Questo succede a Sanremo. Oh signori, qui se vogliamo entrare alle cose solite sono, vabbè, Roma. Allora, io devo dire una cosa. Non mi piace, cioè mi annoia da morire questo dibattito del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e la stampa. Cioè, da una parte, mannoia. Fiorella direbbero a Sanremo. Da una parte un partito, dall'altra una corporazione che tante volte è una corporazione che si chiude a riccio e diciamolo chiaramente. Oh, perché c'è Di Maio che ha consegnato all'ordine una lista di giornalisti sgraditi. Tu, Luca, sei tra questi? Vuoi fare in modo di entrarci subito dicendo qualcosa? No, dai. No, posso dire qualcosa. Sì, certo, puoi dire allora, qualcosa. Allora, no, non mi piacciono le liste, chiaramente. Però sì, devo dire che in questi giorni, ormai in queste settimane, ho visto pubblicate troppi retroscena di quelli che se non c'eri come fai a raccontare quelle cose lì? Tipo? Quindi fatalmente alla fine io posso dire è vero, l'altro dice non è vero e finiamo tutti nel calderone dell'improbabile. A me non piace questa cosa. Cioè per me quelle cose lì o hai le fonti o hai qualcuno che ti racconta e puoi dire nome e cognome oppure non le scrivi. Secondo me. No, su questo sono d'accordo, cioè tutto retro. Ormai sui giornali, guardate che ci sono paginate e paginate, io le leggo in rassegna stampa, il retroscena della politica, cioè... Sì, ma sai, una telefonata è venuta a porte chiuse, ma tu cioè, o intercetti, cioè io devo capire, non so. Vi faccio un esempio. Però io posso dire Milan ha detto scemo a quell'altro, poi gli ha dato un cartone, c'è tutto, cioè... Eh sì, ognuno può dire quello che vuole. Guarda qua, per esempio, Veronica, tu che sei di Roma. Oggi sulla stampa c'è a pagina 3 un colloquio. È strano però, un colloquio, non è un'intervista, è un colloquio con l'assessore Berdini di Roma. Che se fosse confermato, secondo me lo smentisce alle 9:15 quando si sveglia. Se fosse confermato, stiamo parlando dell'ex assessore Berdini, perché senti qui. Virginia Raggi è un incapace, sono proprio sprovveduti lei e Romeo, questi secondo me sono amanti, l'ho sospettato fin dai primi giorni, mi chiedevo ma com'è questo rapporto? E poi questa donna che non sapeva niente, ma che racconti? Oh, e poi quando va ai tavoli con le altre persone, ma la vedono tutti, è proprio un'impreparata strutturalmente, ma non per gli anni, è proprio incapace. Questo è l'assessore Berdini. Ma non ti hanno dato il Golden Globe quest'anno? No. Tu sei straordinario, sei un attore clamoroso, sciocchina. Canti come ti sei calato nei panni di Berdini. Ah, vabbè, le due. No, cioè, scusa, nel senso, più forte di me. È vero, però qual è la premessa? Cosa dicono? No, un colloquio. Berdini tutto, è tuoi? Tutto, no, no, colloquio. Non è un'intervista, è un colloquio. Ma secondo me questa è un po' la... Siamo arrivati alle estreme conseguenze di quello che era il retroscena. Sì. Cioè, prima il retroscena serviva a ricostruire quella che poteva essere il punto di vista, l'opinione che poteva spingersi un palmo oltre la realtà di retroscenisti politici che riuscivano a ricostruire delle ipotesi plausibili. Sì, adesso è diventato o il modo che ha un leader politico di dire la sua senza esporsi, quindi siccome ormai è diventata prassi quotidiana, sappiamo che Renzi è stato un addicted del Renzi ai suoi, no? Dettoci dai vari giornalisti, insomma, a lui più vicini, oppure diventa un modo di congetturare, fare così veramente fantapolitica, anche con un po' di sensazionalismo che ci sta, perché ormai questo voyeurismo gossiparo serve quasi a nutrire le pagine di giornale, perché la notizia da sola non basta più. La sera prima abbiamo già letto tutti su internet, quindi il giornale ti farcisce le cose, sì. Purtroppo Grillo ha buon gioco a dire che i giornalisti che siamo una categoria di cialtroni, secondo me. No, un po' sì. Ah, tra l'altro mi correggono, vedi, sono tutti molto molto precisi. La lista dei giornalisti è stata chiesta a Di Maio dal presidente dell'Ordine dei giornalisti. Ma è davvero così? è incredibile. No, se... non è stato così. Jacopino ha semplicemente detto: non generalizziamo. Era un discorso di risposta, dicendo appunto sulla, su tutta la polemica con la stampa che infanga. Ha detto: non facciamo un discorso che generalizzi. Sì, Di Maio, sì, in risposta, gli ha dato i nomi di quelli che sono fondamentalmente poi i vari esperti di Movimento 5 Stelle, o coloro che più frequentemente si occupano del Movimento 5 Stelle nei giornali che loro ritengono essere ostili. Vabbè, dai, facciamo che io lo chiedo a tutti quelli che ospito, i miei ospiti, a capire se bisogna andare a votare oppure no. Dai, bisogna andare a votare oppure no. Luca, tu che dici? Cioè, nel senso, prima del 2018. Ma guarda, io ho pensato sì fino a... E continuo a pensare sì, anche se devo dire che se continuano a tritarci, diciamo, a triturarci tutto con queste discussioni su, non so, sono un po' stufo, francamente. Mi pare che si parli assolutamente sempre più del come e basta, è solo di quello. Ma sì, ma tu te la vedi una campagna elettorale? Fuori dall'euro! Fuori dall'Europa! Tutto slogan così, che poi la gente cosa ne sa della moneta, ma io per primo, cioè nel senso, come si esce la moneta, tornare alla lira, fuori dall'Unione Europea, sarà tutto uno slogan, fuori gli immigrati, sarà tutto così, cioè basta, siamo sovranisti, che minchia vuol dire, non lo so, sono sovranisti. No, ma non è che non lo sai tu, tu non sei populista, che cioè populista, e sarà così la campagna elettorale prossima. Sarà così, infatti io non ci voglio andare a votare adesso così. No, perché tra un anno invece sarà tutto... No, tutto... il problema è che adesso oltre a questo ci andiamo senza una legge elettorale che abbia un senso, quindi oltretutto è stata fatta anche perché noi capiamo sempre bene i messaggi, il Presidente della Repubblica ha detto che bisogna armonizzare le leggi elettorali e quindi il messaggio da noi tradotto è: ce n'è una che è fatta, non uso turpiloquio a quest'ora di mattina, a cavolo, facciamo a cavolo anche quella dell'altra Camera, quindi se non ci convince fino in fondo l'Italicum rivisto con i capi lista bloccati e portiamolo pure al Senato, anche se la Camera ci lascia perplessi, ma il problema è risolto. Senti che analista, senti che analista della politica, caro Luca, ma una copertina su Vanity Fair, allora ci siamo per Veronica Gentileo? Ci stiamo lavorando. Magari quando tiri fuori le foto con il suo fidanzato, così scopriamo. Così scopriamo. No, non vuole bruciarsi lo scoop troppo presto. Vabbè, ma in tutto questo la Raggi, tu che sei lì, amica del Movimento 5 Stelle, sei di Roma, la Raggi che deve fare? Perché Verdini in questo fantomatico colloquio dice: adesso è uscita questa sull'Espresso, adesso un'inchiesta, ma quando andiamo avanti ne usciranno delle altre, così sempre ma Verdini. Tu, quando tu dici che io sono amica della Raggi, scherzi o fai serio? No, sei amica del 5 Stelle. No, allora... Non sei nella lista. Insomma. Io non sono sicuramente una ostile ai 5 Stelle a priori. Detto questo, che sulla Raggi io pensi che lei sia inadeguata, ormai è storia antica. Diciamo che quello che succede è che ogni giorno si vede di più quanto lei sia attaccabile su tutti i fronti, senza entrare assolutamente nel penale o in ciò che riguarda la corruzione. Io un non po' dico debole, questo. un po' debole. Dico, sì, ma anche attaccabile umanamente su diversi fronti, quindi scelte, nomine, tutto ciò relazioni, che appartiene al suo libero arbitrio. Relazioni. Anche. Esatto, ciò che appartiene al suo libero arbitrio è discutibile praticamente tutti i giorni. Vabbè, ma noi ve la... la tosse, la tosse. Stiamo così, sì. Ve la faccio sentire tra poco dopo il traffico. Intanto il Messaggero dice, ha fatto un sondaggio, che un elettore su due che ha votato la Raggi non lo rivoterebbe se si andasse a rivotare adesso. Vabbè, traffico. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Ma il problema principale a Roma ora è lo stadio? Ma chi se ne frega! La 5 Stellata, là, come si chiama la sindaca Raggiata, là, come si chiama? A posto di nominare Marra, chi là, perché come capo gabinetto non ci mette proprio a Grillo, hai capito? No, capo gabinetto, Peppe Grillo, Oh Maria! E sono una crescita. Stamattina mi dicesti bisogna alzarsi con un sorriso, bisogna essere positivi, eccetera, eccetera. Va bene. Poi mi fai sentire la Veronica Gentili, ma è di come la devi affrontare la giornata. Grazie a tutti, io sono qui oggi in sala degli arazzi, sala addobbata con tutti questi bellissimi fiori che mi avete mandato, mi state testimoniando tantissimo sostegno in queste ore, molti fiori, molti biglietti, molte lettere, da tutta Roma, anche da altre parti dell'Italia, da Sassari, da Bari, da Milano. Mi ha fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Veronica, vuoi cantare questa un po' Sanremo? No. Grazie dei fior. No, e adesso va bene tutto, però mi la visti pure, no. Sono arrivati i fiori alla Raggi. Ho capito, però io non posso adesso coperti tutto il repertorio musicale degli ultimi 50 anni. Perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo no, non ve la canto, non la so, non la canto, bene. Non la canto. Guarda come ci provano lì dalla regia. Niente. Allora, in tutto questo, ovviamente sono sconvolto per quello che è successo in Francia. Vedi, caro Luca, no? Sulla questione degli immigrati. In Francia hanno fatto questo fermo, come dire, discretamente brusco nei confronti di questo immigrato che è stato anche... E cioè, va detto così, durante il fermo è stato sodomizzato con un manganello. Tra l'altro la difesa, pare, di uno dei poliziotti è stato: no, ma si è spostata la tuta proprio lì, il manganello entra. Amico mio, adesso, per carità, attendiamo il processo. Però con queste cose degli immigrati devo dire che c'è tutta una situazione. Ci sono storie, devo dire, ricordo che esattamente la stessa cosa è successa un po' di anni fa negli Stati Uniti a un nero. Sì, tra l'altro, diciamo questo che... era francesissimo, francese, sì. questo ragazzo. Quando, cioè, diciamo che non è una novità, in più quando si, insomma, è banale, però dire, insomma, chi semina odio, c'è troppa troppa retorica e troppa tensione. Sì, è un bene che lui stesso abbia detto per favore basta. Insomma. Sì, è andato a trovare il presidente Hollande anche per il timore. Il timore che possa degenerare la situazione. Un santo, veramente, perché dopo una cosa del genere sfido io a avere veramente la forza di sedare gli animi di coloro, no, che manifestano per te, chiaramente si inalberano violentemente, tra l'altro è zona, cioè io ogni tanto, come alcune forze dell'ordine possano sentirsi autorizzate a fare cose di questo tipo, mi lascia sempre così basita. Sì, tra l'altro all'estero c'è questa cosa in Francia, e poi adesso io ho sorriso con la questione dell'accappatoio di Trump, ma la questione americana è una questione molto molto sulle prime pagine dei giornali, perché qui bisogna capire che fare con Trump, dà delle mazzate anche lui o chi per lui, e ieri l'Iran, e poi l'euro, e la Germania, e la NATO, e l'Unione Europea. Ragazzi, dobbiamo abituarci al fatto che Luca è una nuova presidenza, cioè o facciamo i conti con questa cosa o facciamo... Ma io non so, guarda, è un po' come Raggi, anche lì adesso tanti si stanno pentendo. Io spero che queste cose insegnino un po' alle persone quando... Ma si tu va sei votare. Sicuro? Perché guarda che quando hanno fatto i sondaggi dopo il famoso decreto, il bando, eccetera, sì, la maggior parte degli americani erano con lui. Almeno sai che lì fanno sondaggi ogni due giorni. Sì, ci sono sondaggi. Diciamo che il suo elettorato è strafelice, il suo elettorato, la base forte, diciamo. Sì, sì. E poi quelli che lo hanno votato sulla fiducia non sono felici per niente, ce ne sono tanti che hanno cambiato idea. Cioè è sempre più polarizzato, alla fine è il presidente di, non di mezza America, di mezza meno un pezzo. Non è così che si... Non ho voglia di dirlo perché è un termine che odio, ma è divisivo, cara Veronica Gentile. Amo molto di più Sciocchina, di divisivo. Puoi dire anche polarizzante. Sciocchina e divisivo. Polarizzante, antipolarizzante. Anche perché Sciocchina invece è aggregativo, diciamolo. Sì, Sciocchina aggregativo, esatto. E tre. Allora, però c'è un uomo che ci salverà, andrà da Trump, risolverà tutto. È lui, è Antonio Razzi, signori. Eccolo qua. Ma allora il problema non c'è più, perché fai sei sempre così melodrammatico? Ma infatti, guardalo qua. È vero che lo vuole incontrare a breve? Il presidente Trump? Il presidente Trump. Sì, beh, io 8 mesi fa già ho fatto... Quando pensa ad andarci? venerdì. Lo scopo, perché nella sua campagna elettorale lui ha detto che se veniva eletto presidente voleva riallacciare il discorso con la Corea del Nord. Vado a Pyongyang e se gli devo portare una missiva da parte del presidente, io sono lì. No, ma se ci esce danno il premio Nobel. No, io non voglio il premio Nobel. Cioè, capito, parlo del debito, vado, quando vai? Venerdì. Cioè, che dice? Venerdì, non ho niente da fare. Venerdì vado da Trump. Invece di farsi fine settimana e tornare a Pescara, lui esatto. È, no? Vado a Pyongyang. Recupera una lettera. Con la Corriera se ne andrà in Corea e farà la mediazione tra... Esatto. Certo. Tra Trump e Kim Jong-un. Certo, voi ridete. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. E su questo però non possiamo negare che sia una filosofia, sì, no? Sì, sì. Caro Luca, guarda qui, c'è tutto, c'è nel sunto di Trump c'è tutto. Gli danno una lettera con l'antrace da portare a Pyongyang. Sì, forse sì. Non so, la signora delle camelie, sciocchina. Chi è? Scusami, quando faccio citazioni troppo alte ti lascio impreparato. Esatto, dicevo che sembri la signora delle camelie. Ti ringrazio no, molto. Figurati, caro. Ti ringrazio molto. Allora, invece io vorrei sottolineare che su Vanity Fair, che ho in edicola, ho stranamente una prima pagina non dedicata, una copertina a Veronica Gentili. C'è Ewan McGregor, pronuncialo meglio tu, Luca, tu che sei Ewan McGregor. Conosci Veronica? Yes, of course, I know Ewan. Okay. He's a friend of mine. sì, anche tu lo vai a trovare venerdì. Sì, yeah, of course, I'm going with Anthony Rugby. Do you know Anthony? Anthony. No, però voglio sottolineare sempre nei vari articoli diversi, insomma, che piacciono più a me approfondire, fate un qualcosa legato alla Nigeria. Abbiamo visto cosa piace a te nel tuo Twitter, dai. No, ma quale Twitter? Ieri forse, no. Ah, perché no, vabbè, dai. Le paginate della lingerie. Le paginate, no, io ero concentrato alla paginata a fianco. Tu mi forse... è anche arrivato un tweet di qualcuno che mi aveva scambiato per la signorina. Tu forse, però... malandrino, guardavi la lingerie. Io ho fatto solo la foto un po' da lontano per il titolo su Marra era. No, fate un bel servizio sulla Nigeria e su purtroppo coloro che lasciano la Nigeria, le donne, e si ritrovano con tanti sogni e si ritrovano invece nel giro della prostituzione. E... Che cosa raccontate in questo pezzo, Luca? No, ma sì, sono storie. Fra l'altro è la storia di una ragazza... con educazione assolutamente, una che informatica che viene qua pensando di lavorare in un negozio di computer eccetera come assistente, poi arriva e le dicono ci devi 60-65 mila euro, vai sulla strada se no finché non la recupera. E ci sono associazioni che le salvano. Un'associazione, lei ne è uscita, collabora un'associazione che recupera queste ragazze, che però sono tante. Sì. Anche per riportarle. Quando le vediamo a bordo strada è per questo che stanno lì. Esatto, e le recupera per portarle anche in patria. Allora, ci fermiamo qui. Cara Veronica Gentili, il selfie ce l'hai mandato? Certo. È tutto a posto per la copertina di Vanity Fair, ci stiamo lavorando. Tu però devi sganciare qualche informazione magari su... Vuoi dare un dettaglio? Io dopo chiamo in separata sede Luca. Chi dice che non l'abbia già fatto? Vuoi dare un dettaglio anche oggi? Ci avevi detto l'altra volta Mori e hai accettato anche qualche volta alcuni con gli occhi azzurri. So, devono essere ricchi o poveri? Beh, assolutamente, rigorosamente poveri. Rigorosamente poveri. Peter Bescapea ha esultato. È un punto a suo favore. Vabbè. Scusami, non scherziamo. Rigorosamente sei fuori dai giochi, vabbè, ecco, ma figurati, sciocchina, oggi sei arrivata a 5. Ti saluto. Scusami, qui con il quinto sciocchina. Vabbè. È l'euforia di Sanremo. Dai, un abbraccio, Luca Dini e Veronica Gentili, alla prossima. Dylan, ma che ce frega se la Gentili è fidanzata, sì. Oppure no. L'unico che interessa è a te. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. È arrivato Milana Lino. Legge, commenta,